forse c'era un problema di trasmissione, forse non mi avete ascoltato negli ultimi 15 minuti, non so se per voi è stata una fortuna o una sfortuna. In ogni caso, stavo parlando delle elezioni che ci sono state ormai 8 giorni fa in Venezuela, elezioni che hanno visto confermare alla presidenza del paese Hugo Chavez Frias con ben 8 milioni di voti, un dato notevole visto che non aveva mai preso così tanti voti. Ma altro dato notevole, già l'avevamo detto lunedì scorso, è stata più di 6 milioni di voti dell'opposizione. Anche questo, avevamo detto, è un dato su cui ci dobbiamo interrogare, e lo stavamo facendo con l'aiuto di un articolo che abbiamo tradotto e pubblicato sul nostro sito internet comitatocarlosfonseca.noblogs.org, un articolo di Tamara Persson, una studiosa che però partecipa del processo venezuelano, visto che nella città venezuelana dove abita partecipa alle attività del locale consiglio comunale ed è particolarmente addentro anche al processo bolivariano. Anche lei nota che c'è una differenza stretta tra l'opposizione, tra i voti totalizzati da Chavez e quelli totalizzati dall'opposizione, e si chiede quali sono le ragioni di questo consenso dell'opposizione, fermo restando che comunque Chavez non aveva mai preso così tanti milioni di voti, quindi c'è un consenso molto forte in Venezuela a favore del presidente, dell'attuale presidente. Dice: sicuramente molti di quelli che hanno votato contro Chavez lo hanno fatto come risultato dell'intensa campagna di bugie contro la rivoluzione da parte dei media nazionali privati, che ricordiamo, a dispetto di quanto si potrebbe pensare se si legge il País o il Corriere della Sera, la maggior parte dei media venezuelani sono nelle mani dell'opposizione, sono critici nei confronti di Chavez, sono i grandi media privati. Solo il 15% dei venezuelani vede Telesur, ossia la televisione finanziata dal governo venezuelano, da quello argentino e da altri governi dell'America Latina, o la televisione di Stato venezuelana. La maggior parte segue questi canali privati che sono decisamente all'opposizione nei confronti di Chavez, e appunto sostengono un'immagine del Venezuela come disastro, dove c'è scarsità di cibo, dove l'economia va a pezzi e così via. Armi della propaganda che hanno poi uno scarso valore, visto che in ogni caso il Venezuela è in crescita economica e sono stati fatti anche consistenti progressi nel campo della salute e dell'accesso all'alimentazione. Sicuramente quindi c'è questo ruolo dei media privati e della propaganda dell'opposizione nel massiccio voto a Capriles, ma bisogna anche considerare un'altra componente del voto contro Chavez, dice Tamara Persson. Alcuni votanti hanno pensato che Chavez abbia preso il progetto socialista troppo da lontano, al di là delle politiche sociali progressiste e radicali, mentre per altri c'è stato sicuramente un fenomeno da terzo mandato, ossia la credenza che un presidente non dovrebbe stare al potere per troppo tempo e occhio ogni tipo di alternativa, anche se, scrive Tamara Persson, un'alternativa rappresentata da una persona sessista, ignorante e incompetente come Capriles è un cambiamento necessario. Ma non sono solo questi le ragioni che spiegano questa flessione elettorale, una flessione elettorale che può essere abbastanza rischiosa per le prossime elezioni regionali che si terranno a dicembre e le prossime elezioni amministrative in aprile, dove il fronte chavista rischia di subire qualche sconfitta. In alcuni stati, ora la maggior parte dei stati sono governati dal fronte chavista, ma appunto ci sono alcuni stati un po' più traballanti, anche tenendo conto di questi risultati presidenziali. Si tratta del distretto capitale, dei dipartimenti di Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Lara, Nueva Esparta e Zulia, oltre ai due unici stati dove Capriles ha vinto. Un clásico en el Pascual, adornado de mujeres.